Pronti per un'immersione profonda nel mondo dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla creatività? Assolutamente. Analizzeremo una tavola rotonda con un giornalista, un artista e un ricercatore esperto in etica dell'IA. Un bel mix di prospettive, no? Sì, direi una miniera d'oro per capire le opportunità e le insidie dell'IA in questi campi. A proposito di opportunità, l'entusiasmo per i nuovi strumenti di IA è palpabile. Vero. Midjourney, DALL-E per le immagini, Runway e Luma AI per i video, è come vivere nel futuro. Già, e poi c'è ChatGPT, che sta diventando sempre più sofisticato. Incredibile come questi strumenti si evolvono e diventano accessibili a tutti. Sì, per più professionisti che per i principianti. E a proposito di professionisti, Francesco, l'artista del nostro panel, usa l'IA in modo davvero unico. Sì, lui la usa per, come dice lui, fare impazzire la macchina. In che senso? Provoca intenzionalmente errori nell'IA per ottenere risultati inaspettati. Interessante, quindi non si limita a inserire prompt testo. No, va molto oltre. Regola parametri, fonde immagini, estrae stili. Un processo molto più complesso e collaborativo di quanto si pensi. Assolutamente. E i risultati? Poi, ha creato immagini fantastiche mescolando modelli open source. Ha persino illustrato un intero romanzo grafico con l'aiuto dell'IA. Wow! Ma non è tutto rose e fiori, giusto? Ha accennato anche a reazioni negative. Sì, ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte per aver usato l'IA nel suo romanzo. Minacce di morte, cavolo! Questa reazione dimostra la resistenza che c'è ancora verso l'IA nell'arte. Eh sì, c'è ancora molta apprensione, ma non è una novità. In che senso? È un modello che si ripete nella storia, lo chiamano panico mediatico. Ah, capisco. La società tende a demonizzare le nuove tecnologie prima di capirle. Esattamente. Platone criticava la scrittura, la gente temeva il telefono, la televisione. Ah, è vero. Ogni nuova tecnologia scatena un po' di panico. Già, riconoscere questo schema ci aiuta ad affrontare l'IA con più equilibrio. Giusto. Parlando di paure. Molti temono che l'IA rubi il lavoro ai creativi. Alberto, il giornalista, dice che il problema non è l'IA, ma il mercato del lavoro. Fa l'esempio dei traduttori che si adattano all'IA da anni. E Vero, sono in prima linea da un bel po'. poi fa un'osservazione interessante sulla qualità dei contenuti generati dall'IA. In che senso? Dice che sono mediocri perché riflettono la qualità media dei contenuti umani. Interessante, uno specchio di noi stessi, in un certo senso. Esatto. Allora, qual è il vero potenziale dell'IA per i creativi? Alberto dice che può aiutarci a snellire il lavoro, automatizzare le cose E noiose quindi? e concentrarci su compiti creativi di livello superiore, quelli che richiedono l'essere umano. Come se l'IA fosse il nostro assistente creativo. Proprio così. Ma questo ci porta a una domanda importante. Se l'IA rivaluta il valore del lavoro, Sì. potrebbe portare a un mondo dove professioni essenziali sono più apprezzate e retribuite. Chissà, è una possibilità interessante. Però cambiamo argomento e parliamo dei deepfake. Ok. C'è molta paura sulla manipolazione della realtà e la disinformazione. Alberto dice che la falsificazione delle informazioni non è nuova, però. Pensa agli antichi scribi egizi. Cosa c'entrano? Loro potevano alterare la realtà con la scrittura. C'è un caso documentato di uno scriba che Davvero? ha cambiato il nome di un cospiratore inodiato da Ra per influenzare un processo. Incredibile, sembra un film. Già, quindi manipolare le informazioni non è una novità. Capisco. Pensa alle foto ritoccate e alle fake news. Ogni epoca ha i suoi metodi. Esatto. In questo mondo di informazioni il pensiero critico è fondamentale. Vero. Ora parliamo di Diletta, la ricercatrice specializzata in etica dell'IA, Sì. e si concentra sulle applicazioni meno cool dell'IA. Giusto, quelle in settori come la sanità, l'assistenza sociale, la giustizia. Interessante. La sua preoccupazione principale è che vediamo l'IA come un sostituto del giudizio umano. Capisco. Invece di usarla come supporto? Esatto. E questo può avere conseguenze gravi. Ad esempio? C'è il caso dello scandalo del welfare in Olanda. Un sistema di IA ha segnalato erroneamente Sì. migliaia di famiglie per frode, basandosi su dati distorti. E questo ha colpito soprattutto gli immigrati. Un esempio di come l'IA può perpetuare i pregiudizi. Impressionante. Diletta parla anche di bias dell'automazione. Cosa sarebbe? La tendenza umana a fidarsi delle macchine più del giudizio umano, anche quando sbagliano. Come se ci affidassimo ciecamente alla tecnologia. Esatto. Diletta dice che invece di automatizzare a caso, Sì. dobbiamo rivalutare i sistemi per garantire equità e risultati umani. Un punto importante. Torniamo all'arte per un attimo. Una domanda dal pubblico. Dovremmo usare il termine generativo per l'IA. Dato Ah, sì, è un dibattito interessante. che spesso ricombina dati esistenti, non crea nulla di veramente nuovo. Francesco dice che l'IA può produrre cose nuove se guidata dall'uomo. Quindi. Fa l'esempio di come lui combina stili artistici. Anche la creatività umana spesso reinterpreta influenze esistenti. Come un DJ che mixa brani, ma con gli stili artistici. Esatto. Alberto va oltre e dice che dovremmo problematizzare il termine intelligenza artificiale. Davvero. Racconta di un bambino che ha paragonato l'IA a una calcolatrice. Interessante. Ci fa riflettere su come antropomorfizziamo la tecnologia. Vero, il linguaggio che usiamo influenza la nostra percezione dell'IA. Giusto. Alla fine, l'IA è uno strumento che controlliamo noi. Esatto. E la domanda è, chi controlla questa tecnologia? La plasmiamo noi o si plasma da sola? Bella domanda. Ma torniamo a quel commento sull'IA che riflette l'uomo medio. Siamo destinati alla mediocrità creativa. Non per forza. L'IA riflette i dati con cui l'alleniamo. Se le diamo il meglio della creatività umana, sì, potrebbe aiutarci a migliorare i nostri standard. Una profezia che si autoavvera, quindi. In un certo senso, se vogliamo che l'IA sia positiva, dobbiamo scegliere bene i dati e gli obiettivi. Capisco. E per quanto riguarda il panico mediatico, hai detto che è un modello ricorrente. Sì, pensa alla stampa a caratteri mobili. Si temeva che diffondesse eresie. Ah, interessante. Poi col telegrafo si pensava che avrebbe rovinato i rapporti sociali. È pazzesco come queste paure si ripetano con tecnologie diverse. Eh già, ogni progresso tecnologico crea resistenza. Ma poi ci adattiamo, no? Quindi non dobbiamo farci prendere dal panico per l'IA. Il panico non è mai produttivo. Meglio confrontarsi con questi strumenti, capirne i limiti. E poi? E poi usarli per il bene comune. Facile a dirsi, ma alcuni strumenti di IA sono complessi. Vero, ma non serve diventare esperti. Basta capire le basi, l'impatto potenziale. E poi? E poi parlare delle implicazioni etiche e sociali. Più dialogo e meno catastrofismi, quindi. Ma sa, meno clamore e più riflessione sul futuro della creatività e del lavoro. Ok, capito. Però alcuni risultati dell'IA sono davvero impressionanti. Oh. Ho visto opere d'arte incredibili create con l'IA. Siamo alle porte di un nuovo rinascimento. È una bella idea, ma l'IA è ancora uno strumento, un'estensione della creatività umana. Non un sostituto, quindi. Esatto. La magia nasce dalla collaborazione tra uomo e macchina. Una danza creativa. Proprio così. L'ingegno umano che incontra la potenza computazionale. Invece di temere l'IA, dovremmo usarla per sbloccare nuovi livelli di espressione artistica. Esattamente. Espandere i confini, non nascondersi dall'ignoto. Però non dimentichiamoci il lato oscuro, i deepfake e la disinformazione. Come ci proteggiamo? Con l'etica. Non basta sviluppare tecnologie, bisogna pensare alle conseguenze. Come dare un'arma potente senza istruzioni? Esatto. Dobbiamo essere responsabili e usare la tecnologia per il bene. Trovare l'equilibrio tra progresso tecnologico e responsabilità etiche. Esatto. Progresso con uno scopo, innovazione con integrità. Ben detto. Ma scendiamo un attimo dalla teoria. Cosa può fare un individuo in questo panorama? Prima di tutto, informarsi. Leggere, ascoltare podcast, partecipare a eventi. Immergersi nell'argomento. Esatto. Puoi sperimentare. Ci sono tanti strumenti di IA gratuiti online. Sporcarsi le mani e vedere cosa succede. Già. E non avere paura di fare domande, di pensare criticamente. Quindi, non solo consumare informazioni, ma impegnarsi attivamente. Esatto. Assumersi la responsabilità del proprio ruolo nella rivoluzione dell'IA. Però alcune persone potrebbero sentirsi sopraffatte. L'IA è un campo enorme. Vero, ma non serve sapere tutto. Concentratevi sulle aree che vi interessano. Un artista potrebbe esplorare gli strumenti di generazione di immagini, ad esempio. Esatto. E online ci sono tante risorse, dagli articoli base ai tutorial avanzati. Quindi un approccio graduale. Esatto. E non abbiate paura di chiedere aiuto. Più si impara, più ci si rende conto di quanto c'è da imparare. È vero. L'IA è un viaggio di scoperta continua. Questo mi rincuora. Ma torniamo a Diletta. Cosa diceva sull'etica dell'IA? Che l'IA non è uno strumento neutro. Può essere usata per il bene o per il male. Dipende da come la usiamo, quindi. Sì, è nostra responsabilità usarla in modo etico. Sì, l'IA non è neutra. È come un coltello, può tagliare il pane o ferire qualcuno. Dipende da chi lo usa, quindi. Esatto. Dobbiamo assicurarci che l'IA venga usata in modo etico e responsabile. Quindi non contano solo le capacità tecniche, ma anche i valori umani. Giusto. I sistemi di IA sono buoni quanto i dati con cui li alleniamo e le intenzioni di chi li crea. Se vogliamo che l'IA sia una forza positiva, dobbiamo incorporare i valori giusti. Sì, dobbiamo allineare l'IA alle nostre migliori aspirazioni, non ai nostri istinti peggiori. Bella frase. Ma torniamo all'IA che riflette l'uomo medio. Davvero ci accontentiamo di questo? Bella domanda. La sfida è proprio questa? Usare l'IA per migliorare, non per replicare la mediocrità. Quindi non usarla solo per automatizzare o copiare, ma per superare i limiti, per immaginare nuove possibilità. Esatto. L'IA dovrebbe aiutarci a diventare migliori, non solo a riflettere chi siamo ora. Come possiamo fare in modo che l'IA migliori l'umanità e non si limiti a imitarla? Serve educazione, consapevolezza, un dibattito aperto sulle implicazioni etiche. Un risveglio collettivo sul potere dell'IA. Sì, dobbiamo andare oltre le pare e parlare di come vogliamo che l'IA plasmi il futuro. Quindi meno panico e più dialogo. Esatto. Approcciamoci all'IA con curiosità e responsabilità. Dobbiamo essere sognatori, ma anche guardiani. Non è facile, ma è necessario. Già, il futuro dell'IA è nelle nostre mani. Dobbiamo plasmarlo con saggezza ed etica. Torniamo a Francesco. Ha ricevuto minacce di morte per aver usato l'IA nell'arte. Cosa ci dice questo? Che anche il mondo dell'arte si sta confrontando con l'IA. C'è eccitazione, ma anche paura. Una lotta tra tradizione e innovazione. Esatto. E non sappiamo ancora chi vincerà. Un momento di grandi opportunità e incertezze per gli artisti. Sì, un momento per sperimentare, dialogare, abbracciare l'ignoto. Prima di chiudere, torniamo a Diletta. Diceva che spesso vediamo l'IA come un sostituto del giudizio umano. È una cosa da non dimenticare, soprattutto ora che l'IA entra sempre più nelle nostre vite. Non dobbiamo lasciare che l'IA decida per noi, ma usarla per migliorare le nostre decisioni. Esatto. L'IA è un collaboratore, non un rivale. Dobbiamo trovare la sinergia tra intelligenza umana e artificiale. Giusto. Creare un futuro dove l'IA ci rende più creativi, più compassionevoli, più umani. Che bella visione. Un futuro in cui l'IA ci aiuta a esprimere il nostro pieno potenziale. Una visione per cui vale la pena lottare. Ma richiede un approccio responsabile e etico all'IA. Però, a volte parlare di IA può sembrare un po' pesante. Qual è il messaggio chiave che vuoi lasciare agli ascoltatori? Che l'IA non è fantascienza. È già qui, si sta evolvendo e cambierà le nostre vite. Non possiamo ignorarla, quindi. Esatto. La rivoluzione dell'IA è in corso. Dobbiamo partecipare in modo consapevole e responsabile. Bene, è ora di concludere la nostra immersione. Un'ultima riflessione per gli ascoltatori. Se l'IA ci aiuta ad automatizzare il noioso, a liberare la creatività, a quali attività umane dovremmo dedicarci? Ottima domanda. Ci ricorda che l'IA è uno strumento, sta a noi decidere come usarlo. Plasmando l'IA, plasmiamo il futuro dell'umanità. Parole sagge. Grazie per questa immersione nel mondo dell'IA e della creatività. Spero che gli ascoltatori si sentano pronti ad affrontare questo panorama in continua evoluzione. Siate curiosi e continuate ad esplorare. Alla prossima!